po' perplessa è la mia faccia, se la giacca non si slaccia e i bottoni fan saltelli dentro e fuori come grilli. Tutto è meno faticoso se mi aiuti un po' tu, se mi aiuti un po' tu. Tutto è meno faticoso se mi aiuti un po' tu, se mi aiuti un po' tu. Ho la faccia che borbotta, se i calzini fan la lotta per entrare nei miei piedi, prova ancora tu mi chiedi. Tutto è meno faticoso se mi aiuti un po' tu, se mi aiuti un po' tu. Tutto è meno faticoso se mi aiuti un po' tu, se mi aiuti un po' tu. Ho la faccia da monello e rido e aggiusto il mio cappello, dietro fa un rovescio dritto, son confuso e a capo fitto. Tutto è meno faticoso se mi aiuti un po' tu, se mi aiuti un po' tu. Tutto è ancora più gioioso se mi aiuti un po' tu, se mi aiuti.